2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 19 giugno 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024, quindi 2024, at radio24.it. Come sempre vi ricordo che il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile sul nostro sito internet, ma in modo particolare attraverso il servizio podcast, entro al massimo 1:30 dalla fine della trasmissione, quindi entro al massimo le 18:30 del sabato. Ma come sempre i nostri tecnici sono molto veloci, anche per questo li ringraziamo. Vi ricordo che il modo più facile, più semplice per riascoltare 2024 o anche per tenere le nostre puntate in archivio e appunto abbonarsi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo, con appositi software molto facili, molto semplici da utilizzare, potete scaricare in modo automatico settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. In questa puntata ci occuperemo di privacy, o come dicono gli americani, privacy. Più tardi, nella seconda parte, nella prima parte invece ci occupiamo, o potremmo dire torniamo ad occuparci, di un tema che ci sta molto a cuore, anche perché pensiamo, ma non solo noi fortunatamente, che sia un tema importante per il futuro del nostro paese, il futuro anche per la competitività del nostro sistema. Vogliamo parlare di banda larga e di sostanzialmente due problemi. Il primo è quello forse più semplice da risolvere, cioè le modalità, le idee per colmare il cosiddetto digital divide, cioè per fornire a tutta la popolazione, a tutto il territorio, una banda larga minima o comunque uguale a tutto il paese. L'altro grande tema di cui abbiamo già parlato e di cui si sta parlando da qualche anno in tutto il paese, anche se con poca intensità potremmo dire, è la costruzione di una rete di nuova generazione. Questo è sicuramente uno sguardo verso il futuro molto molto importante. Oggi ne vogliamo parlare con Cristoforo Morandini, che è partner di Between, una società di consulenza che si occupa anche di questi temi. Morandini in modo particolare è responsabile dell'osservatorio banda larga di Between. Benvenuto a 2024. Grazie. Morandini, voi dal 2002 avete attivato questo osservatorio che in 8 anni ha fatto molte fotografie, o comunque ha raccolto molti dati, ha un quadro completo della situazione attuale, quindi potete raccontarci molto su quello che oggi abbiamo nel nostro paese, ma soprattutto sulla base di questi dati possiamo fare anche delle valutazioni su quello che potrebbe essere il futuro. Partiamo dall'oggi, ma vorrei partire proprio dall'osservatorio. Sostanzialmente, che cosa fate e che tipo di informazioni raccogliete? Sì, l'osservatorio è un progetto di monitoraggio, di analisi delle coperture dei servizi a banda larga, dello sviluppo dei nuovi servizi abilitati dalla banda larga. Quindi noi su base trimestrale facciamo un'analisi approfondita dell'avanzamento del livello di copertura, e su base annuale verifichiamo anche l'avanzamento di quello che è il livello di adozione dei servizi a banda larga nelle varie declinazioni. Quando parliamo di banda larga parliamo di ADSL, di UMTS, quindi di 3G, quindi banda larga mobile, parliamo di tutta una serie di servizi wireless, potrei citare il WiMAX, potrei citare l'Hyperlan, c'è qualcos'altro che mi sono dimenticato? Il satellite, per gli amanti della precisione. Sì, giusto. Che è naturalmente il complemento ideale per raggiungere le zone veramente più remote del paese. Tra l'altro a fine anno verrà messo in orbita un satellite di nuova generazione che darà un contributo ancora più significativo per garantire delle prestazioni anche veramente nei posti più dimenticati d'Italia. Sì, è vero, ci sono purtroppo, o per fortuna, perché in alcuni casi insomma si può dire anche di essere fortunati ad abitare in questi luoghi, che sono talmente lontani che l'unico modo per raggiungerli è il satellite. Se dovessimo dire con l'aiuto di qualche numero qual è la situazione italiana per diffusione di servizi a banda larga, poi parliamo anche della qualità della banda larga, se questa banda larga insomma è sufficientemente performante in base alle esigenze del mondo di oggi, sia per i cittadini sia per le industrie, per la pubblica amministrazione. Qualche numero sull'oggi. Sì, allora intanto tu hai detto giustamente, siamo partiti nel 2002, nel 2002 questo è un fenomeno assolutamente marginale e parlavamo appunto solamente della DSL e avevamo circa 300.000 collegamenti a banda larga. A metà di quest'anno siamo sostanzialmente arrivati a 13 milioni di collegamenti, e questo in un periodo ovviamente molto molto molto molto breve. E la novità invece degli ultimi due anni è il contributo che comincia a dare anche cominciano a dare le tecnologie wireless e la banda larga mobile. I 13 milioni di collegamenti di cui parlavo sono i collegamenti di rete fissa, quindi ADSL e fibra. A questi cominciamo oggi ad aggiungere i collegamenti a banda larga mobile, che per il momento sono in larga parte sovrapposti, quindi sono sempre di più gli italiani che hanno un collegamento ad alta velocità a casa, ma che hanno anche una chiavetta che si portano dietro. Quindi questo, diciamo, è il numero che ci dà la dimensione del fenomeno e che ci dà anche il valore che viene generato da queste infrastrutture, questi servizi, nel momento in cui, ricordiamoci come i numeri magici dell'Italia sono 60 milioni di persone, 25 milioni di famiglie e più di 5 milioni di partite IVA. Quindi cominciamo a parlare effettivamente di un fenomeno che interessa una parte considerevole della popolazione. Il valore economico generato da questo fenomeno cresce in modo esponenziale col numero di persone che sono coinvolte nella rete. Quindi la vera sfida che ci aspetta adesso è di coinvolgere un numero crescente di persone, perché se rimaniamo in un paese dove metà è a bordo e metà rimane a terra, rimane esclusa, ecco, questo ci impedirà di crescere alla velocità degli altri paesi. Quindi qua c'è un problema sia culturale, cioè di persone che sotto casa, cioè in casa potenzialmente hanno la possibilità di avere una DSL o addirittura fibra ottica in qualche zona del paese, ma che non ne sentono l'esigenza. Questo è un primo problema. Poi ci sono anche quelli che invece sanno che cosa vuol dire, ma purtroppo non possono averla perché sono in zone, forse non, e questa è un'altra domanda, forse non solo zone remote, ci sono anche zone abbastanza vicine alle città dove non esistono ancora questi servizi. Esatto, il digital divide di tipo infrastrutturale, che è quello del quale stiamo parlando, quindi l'impossibilità di avere un servizio a banda larga, è estremamente democratico, perché per motivi tecnici, per motivi di deployment, di sviluppo della rete di telecomunicazioni, in realtà ci sono dei buchi di copertura anche all'interno delle città e tipicamente in zone dove ci possono essere dei problemi di deterioramento del doppino, che è quello che arriva in casa della maggior parte degli italiani, oppure nelle zone periferiche dove per accelerare i tempi di realizzazione di infrastruttura sono stati utilizzati delle soluzioni tecniche pensate per dare la telefonia e che oggi pongono invece dei problemi per dare un servizio dati come quello internet. Morandini, ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci risentiamo tra poco. Stiamo parlando di banda larga oggi a 2024 e con noi Cristoforo Morandini, che è responsabile dell'osservatorio banda larga di Between. Ci sono, l'abbiamo detto, due problemi sostanzialmente pensando alla diffusione di internet in Italia. Un primo problema è quello del digital divide, cioè della mancanza di collegamenti soddisfacenti in alcune aree geografiche per una parte della popolazione. Poi c'è anche un problema culturale, di cultural divide, quindi di difficoltà di alcune persone, di alcune fasce di popolazione, di capire quanto può essere utile e quante opportunità ci sono all'interno di internet. L'altro grande problema, l'altra grande sfida, ma naturalmente stiamo guardando ad un orizzonte molto più lungo, è quella della costruzione della rete di prossima generazione. In un primo momento la progettazione, l'ideazione di un network di nuova generazione in fibra ottica, in una seconda fase l'inizio vero e proprio della costruzione, una costruzione che durerà parecchi anni. Qua stiamo parlando di 10, 15, 20 anni per costruire un network di questo tipo. Morandini, tornando ai 13 milioni di collegamenti internet in Italia, qua stiamo parlando di molte più persone in realtà che si collegano ad internet, perché qua lei fa riferimento a 13 milioni di famiglie, di abitazioni che sono connesse alla rete. Assolutamente, i 13 milioni sono per l'80% dei collegamenti familiari residenziali, quindi nelle famiglie italiane, e all'interno di queste famiglie il numero medio di utilizzatori è tipicamente dell'ordine di 2 unità, quindi un po' meno del numero medio di famiglie. Tieni conto che nelle famiglie con figli e con figli adolescenti la probabilità di trovare un collegamento a banda larga è oramai superiore all'80%. Quindi se ci sono dei ragazzi la banda larga tende ad essere presente, a meno di problemi di inclusione che possono essere tipo economico, che quindi comunque discriminano alcune fette, sì, di popolazione. Sì, questo è un altro grande tema, un altro grande problema, cioè quello del costo di questi collegamenti, perché se questi collegamenti, come del resto insomma ormai condiviso da molti, sono necessari, ad esempio pensiamo per uno studente, bisognerebbe pensare anche a agevolazioni di tipo permanente, non solo agevolazioni una tantum come abbiamo visto recentemente, che comunque sono benvenute ma insomma non sono sicuramente sufficienti. Quando noi osserviamo le classifiche internazionali, ci piace, forse è un nostro vizio, guardare spesso le classifiche dove siamo molto arretrati. A volte si legge o si sente dire che l'Italia dal punto di vista della banda larga non è sicuramente tra i primi paesi al mondo. Quanto di vero c'è in questo tipo di considerazione? Questo classico bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, nel senso, se guardiamo le statistiche internazionali che vengono pubblicate dalla Commissione Europea, noi siamo saldamente in coda al gruppo e siamo in compagnia di paesi che oggi sono poco raccomandabili, che sono paesi come la Grecia e Portogallo e altri paesi di questo tipo. Questo non ci deve, sì, ci spaventa, naturalmente è un elemento di preoccupazione, però ci deve stimolare a capire come mai siamo così indietro, quindi se è un problema di copertura dei servizi, cioè questi servizi sono o non sono disponibili. In realtà oggi la copertura del territorio è simile a quella degli altri paesi, quindi cos'è? Un problema di prezzi? I prezzi della banda larga in Italia sono ancora un po' più alti rispetto a quello che è la best practice, che è la Francia, ma sono allineati. Il vero tema è che noi abbiamo troppe poche persone che sono in grado di usare un personal computer, e questo diventa un problema che richiede gli interventi non di brevissimo ma di medio periodo. Naturalmente se non cominciamo a portare PC nelle scuole, possibilmente funzionanti, perché chiunque di noi ha dei figli nelle scuole elementari, nelle scuole medie, sa di che cosa sto parlando, perché nel momento in cui i genitori devono portare la carta igienica a scuola, io porterei anche il mio personal computer, voglio dire, però poi dall'altra parte non è detto che ci sia un insegnante in grado di utilizzarlo e di mantenerlo in funzione. Questi sono i problemi che noi dobbiamo affrontare. Quindi diciamo che l'occhio giusto, cioè l'atteggiamento giusto per guardare queste classifiche, è dire non è un problema di diffusione, cioè di disponibilità dei servizi, sul quale poi parleremo, ma del quale comunque ci dobbiamo preoccupare, ma è più che altro un problema, come dicevo prima, cioè la DSL molti ce l'hanno magari sotto casa ma non la usano, non sentono le esigenze e non capiscono perché dovrebbero usarla. Sì, l'età media della popolazione italiana sicuramente non aiuta, perché se noi guardiamo la campana, no, di distribuzione dell'uso del broadband per età della popolazione, come dicevo prima, sostanzialmente i giovani sono praticamente coinvolti, e con la diffusione delle soluzioni in mobilità lo saranno nativamente. I miei figli sono nativamente broadband, c'è poco da fare. Il problema sono le fasce più anziane e le fasce più povere della popolazione. Sì, sempre, poi concludiamo questo capitolo, sempre guardando agli altri paesi, se guardiamo al di là dell'oceano o comunque negli altri continenti, ci sono casi particolarmente interessanti o poco perché sono molto diversi? Per esempio, quando si parla del Giappone e della Corea, certo sono interessanti, ma sono paesi talmente diversi che non so quanto possano essere presi ad esempio. Anche questo è un tema di grande attualità, perché effettivamente quando parliamo di banda larga e oggi di ultra broadband, quindi di velocità che vanno oltre i 100 mega, nei paesi che citavi tu, quindi Giappone, Corea, Singapore, si parla oggi di dare dei servizi a un giga, che sono delle velocità oggi inimmaginabili. Quindi è vero che uno si dice, ma noi cosa ce ne facciamo di tutte queste velocità? Quindi lo vediamo come un mondo lontano, un mondo troppo diverso da noi, con gli occhi particolarmente strani. Il vero tema è che anche qui c'è però un insegnamento importante. Perché sta succedendo da loro e non sta succedendo da noi? Loro sono probabilmente molto più lungimiranti nel fare squadra, nel creare concertazione tra quelli che sono gli interessi dell'industria. Cioè, perché si parla di televisione ad alta definizione, di televisione 3D, associata anche alla banda larga, alla banda ultralarga in quei paesi e non da noi? Forse perché loro hanno un'industria che è parte in causa. Il governo si rende parte attiva per creare le condizioni e poi il mercato spesso segue e si innesca questo circolo virtuoso che noi facciamo molta fatica a replicare in Europa. Però l'orientamento recente della Commissione europea, dell'Unione europea, va sicuramente in questa direzione. Anche noi abbiamo oramai capito che la partita si giocherà su questa dimensione dell'economia in rete, dell'economia digitale. Si vince e si perde a seconda di come ci posizioniamo in questa dimensione. L'Unione europea, devo dire che probabilmente sta dando un indirizzo utile per tutti i paesi. Concretamente nel nostro paese, a proposito della prima parte del problema, cioè quello del colmare il digital divide, sia culturalmente che infrastrutturalmente, si sta facendo qualcosa o nulla? Sì, allora qui abbiamo due livelli di intervento. In realtà starei considerando anche il mondo delle imprese private. Quindi partiamo magari dalle imprese private. Gli operatori di telecomunicazione sostanzialmente sono arrivati laddove potevano arrivare, nel senso che al di là dei livelli di copertura che hanno raggiunto oggi, gli investimenti sono tali per cui non sono economicamente giustificabili se non in una situazione di sussidio o di contributo alla realizzazione. Quindi gli operatori dicono: noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso magari appunto ci occupiamo della nuova generazione, però in zone molto molto selettive dove pensiamo di avere un ritorno economico. Il governo, a valle del rapporto Caio, che oramai è del 2009, più di un anno fa, che poi ha generato la definizione di un fabbisogno che era attorno a 800 milioni, che poi con quello che sta succedendo oggi non riesce ad essere soddisfatto. Quindi c'è un piano, è chiaro dove intervenire, come intervenire, però non ci sono le risorse. E probabilmente in questo momento la parte più dinamica invece sono le regioni, in particolare alcune regioni, che si sono attrezzate con delle risorse europee, delle risorse locali, per contribuire a colmare il digital divide. Ecco, partendo proprio dalle regioni, quindi dal territorio locale, vorrei passare all'altro tema, cioè allo sguardo verso il futuro, ovvero la costruzione della cosiddetta rete di nuova generazione. Gli esperti la chiamano Next Generation Network, quindi appunto rete per la prossima generazione, guardando molto in là negli anni, perché è una rete che insomma richiederà almeno 5, 6, forse 10 anni per la costruzione, ma prima o poi però bisogna partire, questo è un po' il nodo della questione. Cosa si sta facendo e soprattutto chi lo sta facendo oggi, o almeno il dibattito dove è più acceso? Chiaro. Allora, da questo punto di vista, ancora una volta, l'avanguardia è sicuramente a livello locale. Noi abbiamo un piano governativo che dà un obiettivo di medio periodo per l'annullamento del digital divide di prima e seconda generazione. Sul tema di queste nuove reti, in realtà c'è in particolare una regione, che è la regione Lombardia, che ha annunciato di voler realizzare un'infrastruttura di questo tipo per metà della popolazione lombarda. Quindi attenzione, con questo digital divide dovremmo imparare a convivere, con un piano che quindi richiede i tempi di cui accennavi tu, quindi un orizzonte di 5-7 anni, ma poi nella pratica è qualcosa che si avvicinerà ai 10. E quindi la Lombardia è sicuramente la regione che oggi ha messo le carte sul tavolo. Anche qui però attenzione, per fare questa operazione in Lombardia gli investimenti richiesti sono dell'ordine di 1,5 miliardi. E quindi il tema, la domanda che sorge spontanea, è chi paga tutto questo? C'è una risposta? Perché questa è una... Naturalmente, tendenzialmente è qualcun altro, nel senso che, no, però a parte gli scherzi, su un tema di questo tipo sarà inevitabile andare a definire o delle forme di project financing oppure dei modelli più o meno innovativi di partnership pubblico-privata per fare in modo che vengano generate le risorse necessarie. Sì, sul caso della Lombardia, lo ricordo agli ascoltatori, ne abbiamo parlato recentemente, quindi se siete interessati al tema, un tema sicuramente importante e quindi amministratori pubblici in modo particolare dovrebbero essere interessati, potete riascoltare la puntata nel nostro archivio. Morandini, a proposito di piani locali, c'è qualche altra regione che sta almeno discutendone oppure la Lombardia è apripista e sola per il momento? No, assolutamente. Il tema del digital divide, dei processi di infrastrutturazione del territorio con reti di nuova generazione richiedono dei tempi lunghi. Questo significa che è un processo in continua evoluzione, quindi chi è più avanti sono quelle regioni che hanno sostanzialmente risolto il problema precedente degli interventi per annullare la prima forma di digital divide. Quindi ci sono regioni che sono sicuramente attive, che stanno discutendo come le Marche, come l'Emilia-Romagna, come anche la Sardegna o il Veneto, con diversi livelli di maturità e di sensibilità al problema. Anche il Friuli Venezia Giulia, scusa, e poi la provincia autonoma di Trento, che potrebbe e dovrebbe diventare un terreno anche di sperimentazione di iniziative congiunte tra i diversi operatori. Bene, per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, lo riprendiamo tra poco. Riprende questa puntata la seconda parte di 2024, seguiteci il sabato nel pomeriggio di Radio 24, siamo in onda tra le 16 e le 17, oppure ci trovate online su www.radio24.it, trovate il file MP3 della nostra trasmissione, il modo più semplice per scaricarlo in modo automatico settimana dopo settimana è abbonarsi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile a breve, subito dopo il termine del nostro programma, quindi al massimo entro le 18:30 del sabato, e per questo ringraziamo i nostri tecnici. Comunque, per qualsiasi informazione, per qualsiasi perplessità sul download del nostro programma, potete anche scriverci una email a 2024@radio24.it. Stiamo parlando ancora per pochi minuti di banda larga con Cristoforo Morandini di Between e poi parleremo di privacy, tema molto importante, direi altrettanto importante. Morandini, per risolvere in parte almeno i problemi che abbiamo per la diffusione della banda larga, i servizi di telefonia mobile, li chiamiamo di telefonia mobile, insomma, quelli basati sulle reti di telefonia mobile, possono essere una soluzione? Qui bisogna essere molto chiari, perché a regime tutte queste tecnologie andranno sicuramente a convivere e vanno pensate e progettate in modo complementare. Senza dimenticarci il satellite, che comunque ci darà un contributo. Però bisogna essere altrettanto chiari, perché effettivamente oggi si vedono delle dichiarazioni di velocità nominali di servizi a banda larga mobile che sono 7 mega, 14 mega, 28 mega, si parla appunto di velocità ancora superiori, però bisogna sempre essere consapevoli del fatto che un'infrastruttura di rete mobile lavora su una risorsa che è scarsa, che sono le frequenze, e quindi all'interno di una determinata area attorno a quella che è una stazione radiobase la capacità disponibile è limitata ed è soprattutto condivisa, quindi se siamo in tanti in quel posto avremo tutti una quota parte di quelle capacità di cui tu stavi parlando. A proposito di fibra ottica, c'è chi dice: ma con la DSL facciamo già un sacco di cose, la DSL è sufficiente. A questo punto vorrei chiedere, prima di tutto, la DSL di cui disponiamo, visto che l'osservatorio si occupa anche di questo, è una buona DSL, cioè la banda larga che ci offre è di buona qualità? E soprattutto, quanto abbiamo bisogno in effetti di fibra ottica per il futuro? Perché, appunto, lo dicevamo anche prima, i progetti di cui si sta parlando sono progetti che fanno riferimento all'ultra banda larga. Ma per farci che cosa poi? Partiamo dalla qualità dell'attuale. Sì, che probabilmente è un buon modo di affrontare il problema. Allora, in Italia effettivamente abbiamo una rete di accesso, che è quella che collega le centrali con le nostre case, che è di buona qualità rispetto ad altri paesi e soprattutto ha una distanza media che è inferiore agli altri paesi. Siccome una delle principali discriminanti per garantire dei livelli prestazionali elevati è la distanza, noi da questo punto di vista siamo leggermente avvantaggiati. Poi abbiamo cominciato a misurare le prestazioni effettive dei collegamenti e su un campione che oramai è significativo, perché abbiamo circa 30.000 agenti software installati e 500.000 misure che abbiamo effettuato, cioè a fronte degli 7-8 mega nominali che si possono raggiungere tecnicamente, le misure che abbiamo rilevato ci portano a dimostrare come la velocità media sia attorno a 4 mega. Però ci sono dei problemi fisici, per cui a seconda di dove stai, di quanto sei distante, arrivi a certi livelli. Però questo è un circolo virtuoso. Perché i giapponesi e i coreani si pongono il problema di dare un giga? Se pensiamo anche a quello che è successo nello sviluppo di internet, prima negli Stati Uniti, con la rete della ricerca, eccetera, su temi di questo tipo, sull'innovazione tecnologica, la storia dell'economia ci insegna che spesso è l'offerta che crea la propria domanda. Cioè, creando una nuova infrastruttura, ampliando le possibilità, la fantasia ci aiuta a generare opportunità che prima erano impensabili. Con questo noi possiamo fare moltissime cose oggi e dobbiamo innanzitutto in Italia occuparci dell'inclusione, di portare più gente possibile a bordo. Però, siccome il processo, abbiamo detto, è molto lungo, dobbiamo attrezzarci per costruire oggi il futuro. Sì, le automobili sono nate dopo le strade, potremmo dire, o comunque non potremmo pensare alla telemedicina, ad esempio, se non abbiamo reti, oltre che performanti, anche sicuramente performanti, perché insomma la certezza del collegamento è un altro elemento importante. Io ringrazio Cristoforo Morandini, grazie, buon lavoro e a presto. Grazie a tutti. Come vi ho annunciato, adesso cambiamo argomento, parliamo di privacy, o come dicono gli americani, gli anglosassoni, privacy. Quante volte sentiamo nominare questo termine accoppiato con i social network, ad esempio, con molti dei servizi internet che sono nati in questi anni? Beh, forse ci preoccupiamo troppo poco dei nostri dati, dei dati che noi mettiamo o che gli amici mettono online, nei social network, ma anche in molti altri servizi internet. Vogliamo parlare di questo con Pietro Paganini, che saluto. Benvenuto 2024. Grazie, buongiorno a tutti. Pietro Paganini insegna alla John Cabot University e è anche uno dei fondatori dell'Istituto Italiano per la Privacy. Quando parliamo di privacy, ormai l'abbiamo ripetuto un po' di volte, a che cosa facciamo riferimento? A un sistema un po' complesso e una serie di dati, ma di preciso che cosa? La privacy in realtà è la difesa della nostra parte privata, quindi quello che dall'inglese sarebbe il diritto di essere lasciati in pace, the right to be left alone, come dicono gli inglesi, quindi di non essere intaccato nella propria attività personale, che oggi nell'era di internet, nell'era del telefono, è anche il diritto a tutelare l'utilizzo da parte di altri dei propri dati personali. Facciamo un esempio: non voglio essere disturbato a casa, cioè voglio essere lasciato in pace, un attentato se vuoi alla mia privacy, non voglio che i miei dati siano utilizzati da terzi, invece è il tentativo di proteggere i miei dati. Con la diffusione di internet, con la diffusione anche del telefonino, che è uno strumento che noi abbiamo sempre accanto, le cose sono un po' cambiate, perché siamo noi personalmente, quindi anche tutti i nostri dati, molto più esposti alla piazza, non del paese ma del mondo. Certo, noi pensiamo alla privacy come al VIP che è importunato durante le sue attività personali da un fotografo. In realtà nell'era di internet noi scopriamo, nell'era dei telefonini, pensiamo alla questione che non toccheremo delle intercettazioni, come tutti i nostri dati in realtà non rimangono a noi e spesso non sono sotto il nostro controllo, ma vengono dispersi in rete, pensiamo solo al caso internet, e in alcuni casi possono essere utilizzati per intenzioni positive di mercato e positive anche nei nostri confronti, altre volte invece possono essere utilizzati a nostro svantaggio o anche per fini criminosi. Pensiamo al clonaggio delle carte di credito o all'utilizzo della nostra stessa identità, il cosiddetto furto di identità. Quello che è importante però è la nostra possibilità di scegliere cosa fare dei nostri dati, anche da parte di terzi, e poi di averne il totale controllo. E naturalmente questo implica la consapevolezza di cosa sto facendo in quel momento. Cioè, se io vedessi un fotografo che mi segue, sono consapevole che sta entrando nella mia privacy. Quando navigo su internet non ho sempre quella certezza. Credo di essere totalmente protetto, in realtà non lo sono. Uno di fronte a questa serie di considerazioni potrebbe dire: ma io che cosa ci posso fare? Perché spesso anche navigando in internet ci vengono richieste banalmente delle informazioni per registrarci ad un servizio che è gratuito. Io dico: oh, vabbè, diamola pure la email, diamo pure il nome e cognome, che comunque è un dato che può sempre essere utilizzato, perché finché non digitiamo nome e cognome, sì, siamo tracciabili con un IP che è collegabile ad un abbonamento a DSL o comunque ad altro tipo di connessione, però il sito tal dei tali non sa che dietro quella navigazione c'è magari Enrico Pagliarini o Pietro Paganini. Che cosa ci possiamo fare? Beh, in realtà possiamo farci ben poco. L'importante è che siamo consapevoli di quello che sta succedendo. L'importante è che quando lasciamo dei dati personali, cioè immettiamo noi fisicamente scrivendo nome e cognome dove abitiamo, lo facciamo in siti dove ci sia chiaramente la possibilità, le famose clausole privacy, per cui io posso la notification dire sì, utilizza i miei dati oppure no, non utilizzare i miei dati. Poi c'è la questione che invece nel momento in cui noi navighiamo siamo già tracciabili. Come se qualcuno ti seguisse per strada e vedesse in quali negozi entri e sulla base di quello ti profila. E che oggi la discussione da un punto di vista normativo, ma non è solo una discussione normativa, se vuoi anche una discussione filosofica e politica e culturale, è il famoso codice IP, che è l'indirizzo internet che ci nasconde o dietro il quale ci nascondiamo. E la domanda è: l'indirizzo internet IP è un dato personale oppure non è un dato personale? Naturalmente per scopi pubblicitari chi vende pubblicità e profila tende a dire non lo è. In alcune situazioni, per esempio in cui siamo diffamati, a noi invece piacerebbe che questo fosse un dato personale, perché vogliamo sapere chi si nasconde dietro quell'IP e da chi è partita la diffamazione. Però è sempre due principi fondamentali della privacy: da una parte il diritto all'utente di essere consapevole e di tutelarsi, dall'altra parte però anche la possibilità da parte degli operatori di mercato o di qualsiasi operatore di poter effettuare un servizio, perché effettivamente se noi navighiamo gratuitamente, facciamo delle ricerche nei motori di ricerca gratuitamente, non è perché ci sono dei filantropi nel mondo, ma perché facendo quelle ricerche in realtà stiamo vendendo, tra virgolette, dei dati personali che serviranno al motore di ricerca per profilarci, quindi per fornirci della pubblicità. E questo è sicuramente un aspetto molto importante. Ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco. ...2024. Stiamo parlando di dati personali e dell'impatto che la rete internet ha sulle nostre vite, visto il numero crescente di informazioni, di tracce digitali che lasciamo in rete, consapevolmente o no. Ne stiamo parlando con Pietro Paganini, che è uno dei fondatori dell'Istituto Italiano per la Privacy, con altri colleghi. Tu hai da poco scritto un libro intitolato Next Privacy, nel quale vi interrogate anche sul futuro. Visto che sulla raccolta di dati personali, spesso in forma anonima, va detto, ma su questa attività sono nate e ci sono oggi aziende gigantesche, uno potrebbe domandarsi, per l'utente ma anche per il sistema, per la società, sono più i vantaggi o gli svantaggi? Non è che i vantaggi stanno solo dalla parte di questi grandi colossi. Beh, in generale, ma questa è una mia affermazione presunta, se poi anche su dei dati empirici abbastanza evidenti, sono più i vantaggi che la tecnologia oggi ci dà. Naturalmente nei vantaggi ci sono sempre dei rischi. Oggi quando abbiamo dei rischi legati ai dati personali e alla privacy, questi rischi spesso si fondano e vengono dal fatto che l'utente non è consapevole di quello che sta succedendo. Si ritiene che quando si naviga gratuitamente è un vantaggio. Io dico è esattamente un vantaggio per i cittadini. L'importante è che il cittadino, che l'utente, scusami, sia consapevole di questo vantaggio che deriva dalla cessione dei propri dati personali. Tanto che c'è un paradosso che è provocatorio naturalmente. Io navigo gratis perché immetto faccio ricerche gratis, pago perché poi l'abbonamento lo paghiamo, magari. Metto dei dati all'interno di un motore di ricerca in cambio di un servizio che non è più gratuito, in realtà sto pagando la moneta, non è la carta moneta ma è il dato personale. La provocazione è, sì, ma è che io che navigo ormai da 10 anni, se non di più, di informazione ne ho data tanta, ho un profilo che corrisponde al mio IP che è sempre lo stesso ormai da credo 10 anni, la provocazione è dietro quell'IP c'è un profilo che ormai è ricco, non è il caso che sia io a essere pagato per la qualità delle informazioni che metto. Naturalmente è una provocazione, ma è una provocazione che ha un senso, cioè qual è il bilanciamento dell'informazione che io do e quella che ricevo, perché io credo con presunzione, come tanti altri, di fare ormai delle ricerche molto definite, molto accurate, che servono ad arricchire il mio profilo. Per cui pensiamo al supermercato, ci danno una carta di fedeltà, perché ci danno un miglior servizio, ma perché così possono raccogliere anche maggiori informazioni su quelli che sono i nostri consumi. Il libro Next Privacy è un libro tra i più semplici nell'ambito della privacy, che non si rivolge a un pubblico unicamente di legali o di esperti, ma che vuole andare a un pubblico più ampio, cercando di capire proprio quali sono i rischi, quali sono le opportunità e quali sono le sfide, perché come hai detto tu giustamente ci sono grandissime opportunità nell'ambito privacy, non solo su internet, ma che sono quelle di attività di mercato che hanno a che fare con i dati. Noi, come conclusione del libro, riteniamo che queste attività sono più di successo più c'è la consapevolezza da parte degli operatori di mercato che la privacy e la protezione dei dati non è, come si dice, un elemento negativo, ma è invece, come in tanti la interpretano, cioè come una legge che dobbiamo per forza rispettare, ma invece è una grande opportunità di fornire un servizio migliore all'utente, cioè io ti fornisco un servizio e ti dico considera che questi dati saranno utilizzati, vuoi farlo, vuoi non farlo, vuoi cedere dei dati piuttosto che altri, quindi rendi anche l'utente più consapevole e lo stimoli a in realtà a fornirti i suoi dati, ma lo stimoli anche a prendere una decisione. Sì, sì. Quali dati noi lasciamo in rete poi nel concreto? Anche facciamo riferimento anche a dati che noi lasciamo senza accorgersene. Sì, l'abbiamo detto prima, quando io navigo, nel momento in cui vado sulla prima pagina, qualsiasi pagina che vada, e questo non voglio spaventare gli ascoltatori, però qualsiasi pagina che noi stiamo visitando rimane in una memoria e naturalmente è utilizzabile per scopi di mercato, per scopi anche di sicurezza, cioè se io visito dei siti che mettono a repentaglio la sicurezza nazionale, questo è naturalmente ritracciabile, è ricaricabile, è ritrovabile in un profilo. Quindi sono tantissime le informazioni. Pensiamo ai social network. Tutti ormai o quasi tutti hanno una pagina LinkedIn o su Twitter o su Facebook, e tendono a lasciare informazioni, cioè se io metto che ieri ero bloccato all'aeroporto di Bruxelles, tutti i miei amici, ma non solo oggi, solo i miei amici, tutto il mondo in realtà può vedere che io ero bloccato all'aeroporto di Bruxelles. Se lunedì mattina mi presento in un ufficio e dico scusate se non sono venuto, ero impegnato in una conferenza altrove, oppure lascio una nota per cui sono al mare, e poi dico al mio capo no, ieri ero bloccato all'aeroporto di Bruxelles, chiaramente il mio capo, semplice a dirlo, va sul mio profilo e vede che io stavo raccontando una realtà completamente diversa. Questi dati fra 5 anni saranno ancora in rete, cioè io oggi uno metto a repentaglio, se vuoi, anche il mio posto di lavoro o le mie relazioni sentimentali, dall'altra parte io metto, pensiamo alla quantità di foto che lasciamo su Facebook. Alcune di queste foto possono anche avere una rilevanza, se vuoi, penale, giuridica, possono offendere qualcuno e rimarranno ormai a vita all'interno di internet, perché io quando chiudo la mia pagina di Facebook in realtà il mio profilo resta all'interno dei server e resta riutilizzabile, e sappiamo che quando io vengo indicizzato, cioè quando il motore di ricerca, pensiamo Google o Yahoo, trova la mia pagina su Facebook, la memorizza, quella pagina rimarrà all'interno di Facebook ed è difficilissimo fare poterla cancellare. Cancellare, sì, bisognerebbe domandarsi, questo se lo dovrebbero domandare soprattutto i più giovani che fanno questo con estrema facilità, anche con estrema frequenza, tutti i giorni o magari forse solo tutti i giorni, molto spesso ogni giorno dovrebbero domandarsi cosa succederà nel futuro, lasciando tutta una serie di cose, non dico compromettenti, però a volte insomma anche così discutibili, bisognerebbe capire che cosa poi questo possa comportare nel futuro, certe fotografie, certe frasi, certe affermazioni, ma è difficile. Questo sarebbe anche un compito dei genitori, che purtroppo però a volte non capiscono cosa fa il figlio. Ma guarda, lì è compito un po' di tutti sviluppare la consapevolezza, perché noto nelle generazioni passate c'è un'attenzione particolare ai propri dati, c'è consapevolezza in questo, cioè c'è la sorta di pudore a non mettere in piazza i propri interessi, mentre i giovani di oggi, proprio perché sono nati con le tecnologie, sono cresciuti, hanno un approccio alle tecnologie che è straordinariamente diverso dal mio, dal tuo, da quello di chi ci ha preceduto, hanno la tendenza a non considerare la propria privacy come la consideriamo noi, hanno un approccio completamente diverso, che non è sbagliato, è semplicemente diverso da come il nostro. Quindi non stiamo a pontificare giusto o sbagliato. Quello che però è importante è che siano consapevoli del fatto che altri possono avere un approccio diverso da loro e che quindi devono potersi tutelare, cioè che se io volessi condividere tutte le mie informazioni non necessariamente lo debba fare anche tu. E l'importante è che se le condivido sappia esattamente però che questo ha, come tutte le azioni, delle conseguenze. Cioè se io mettessi oggi una foto online di me con la testa rasata, cosa che non sono, non ho mai fatto e non farò, però fra 10 anni o 20 anni questo potrebbe essere riutilizzato anche contro di me. Sì, magari uno anche lo fa per scherzo e poi... Lo faccio per scherzo, mi sono pentito. Il caso Google dei ragazzini che hanno insultato in maniera vergognosa il disabile, in realtà è successo all'interno di una scuola, messo online, la potenza della rete ha fatto sì che questo arrivasse a migliaia di centinaia, forse migliaia di persone, e che avesse anche poi delle ripercussioni giuridiche. Devo dirti, in questo caso le ripercussioni giuridiche interessanti, perché è un tema assolutamente nuovo e interessante che necessita di essere affrontato. Sì, sicuramente immagino insomma, che il dibattito sia forse solo agli inizi. Il dibattito è appena iniziato, è un dibattito bellissimo, e che è necessario e che avrà dei tempi lunghi, perché noi oggi ci siamo abituati ai 140 caratteri di Twitter, per cui vogliamo avere risposte immediate. In realtà è un mondo complessissimo, sconosciuto, e questo va riconosciuto, per cui occorrerà del tempo e dobbiamo avere un po' di pazienza che ci sarà d'aiuto se affrontiamo il dibattito in modo scientifico, senza farci trascinare poi dagli entusiasmi o invece dal pessimismo cosmico. È importante capire, e queste sentenze lo so che sono fastidiose, a volte sono eccessive, però servono per farci capire che la rete non è un mondo a parte, al di fuori della realtà, ma è un mondo che ha bisogno, come la realtà nostra, di regole, dove la libertà è regolata, perché la libertà, questo è il principio liberale, è il risultato di una discussione e di regole. Senza le regole non esiste la libertà. Ringrazio per essere stato con noi Pietro Paganini, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. E così noi chiudiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, tra poco troverete online il nostro file MP3, non dimenticate la nostra email 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie in redazione ad Anita Panizza. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.